Acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Pauline. E siamo a pagina 80. A te la parola. Ecco, grazie Don Tino. Allora, oggi leggo e commento brevemente quello che ho scritto nel capitolo ottavo, che si intitola Un cielo terso pieno di stelle. L'ultima volta ci siamo soffermati sul viaggio verso Betlemme e adesso in questo capitolo io faccio dire da Giuseppe e da Maria quello che è successo nella notte santa di Betlemme, no? Nella nascita di Gesù, perlomeno secondo, ecco, ovviamente quello che posso ricostruire io con la mia preghiera e con la mia meditazione. Allora, comincia sempre Giuseppe e il suo passo si intitola Con il bambino tra le braccia. E Giuseppe dice così: il viaggio durò diversi giorni ed era inverno. Io a piedi, lei sul dorso dell'asino, in carovane numerose. Molti si muovevano per il censimento. Il timore di non poter offrire una casa alla mia sposa nel momento così delicato del parto era per me bruciante. Arrivati a Betlemme mi diedi da fare per cercare un alloggio e dare a Maria un luogo protetto dove custodire la sua intimità. Al sentire più volte la frase «Non c'è posto per voi qui», si moltiplicavano il dolore e l'ansia di non arrivare in tempo. Maria mi rassicurava: «Troveremo, ci sarà un posto preparato per noi dall'eternità. Dio si occuperà del suo bambino». Così mi aiutava a non sentirmi ripugnato da Dio, punito per chissà quale peccato. Coprivo Maria dal freddo e le procuravo del cibo. Lei mi riempiva di parole di rassicurazione. Ecco, io mi rendo conto che nel scrivere questo modo di volersi bene tra Maria e Giuseppe, soprattutto da parte di Maria per Giuseppe, il quale ha la responsabilità della famiglia, si sente come un uomo in dovere di, appunto, di assicurare la casa, l'alloggio alla sposa che sta per partorire, e anche ha quella responsabilità davanti a Dio, no? Di custodire il figlio di Dio e sua madre. E ecco, io uso questo modo di dire le parole di rassicurazione, che è uno dei cinque linguaggi dell'amore di cui ha parlato Gary Chapman in un libro che ha avuto un certo successo, in cui, ecco, è un uomo che aiuta le coppie in America e dice, ecco, che a volte il modo di volersi bene ha linguaggi diversi, e uno che lui mette in evidenza è proprio questo dirsi parole che rassicurano. E allora mi ha fatto piacere mettere in evidenza anche tra me e Giuseppe anche questo linguaggio dell'amore insieme a tanti altri. Finalmente qualcuno ebbe pietà di noi e ci indicò una grotta adibita a rifugio per animali. Le stalle d'inverno avevano il vantaggio di essere calde grazie alla presenza degli animali. Qui io posso raccontare che metto in evidenza una cosa che a me ha colpito molto delle memorie di mio nonno materno. Mio nonno materno, che si chiamava Amatore Orlando, che era un friulano, che è nato a Carpacco sul Tagliamento negli ultimi anni dell'Ottocento, e lui raccontava, era come una volta, quando era già anziano, scrisse delle memorie per i nipoti sulla sua vita, soprattutto sulla Prima Guerra Mondiale, e raccontando la sua nascita disse che proprio, io la vidi la sua casa, era una casa di campagna in riva a quel fiume, e lui, che nacque in febbraio, fu proprio, cioè nacque nella stalla, cioè la sua madre scese nella stalla perché era inverno e quello era il locale più caldo, e quindi ho scoperto che, insomma, c'era una consuetudine, perlomeno in quegli anni, in alcune zone di campagna, anche nelle nostre terre. Infatti lui diceva: sono nato nella stalla come Gesù bambino. Ecco, c'è questo ricordo personale che ho utilizzato per dire che quella scena che tutti conoscono del bue e dell'asinello ha un senso anche per questa abitudine antica, quando non c'erano gli scaldamenti come siamo abituati oggi. C'era un bue attaccato alla greppia, con il nostro asino e il bue c'era un po' di tepore. Accesi un fuoco, dovetti lavorare per preparare un giaciglio di paglia pulita per Maria, fare un po' di pulizia in quel luogo semiabbandonato. Lei avvertiva che era giunto il momento tanto atteso. Cercai di chiudere l'apertura della grotta, da cui entrava molto freddo, con tavole di legno e un mantello. Nostalgia di Nazareth e delle cose povere ma utili che avevamo in casa. Ripensando a quei momenti comprendo che la vicinanza costante del figlio di Dio e di sua madre, nonostante tutte le prove, mi dava una grande forza. Evidentemente penso che tutti capiamo che Giuseppe in quel momento, dopo aver preparato per me di questo evento, io a Nazareth abbia sofferto, no, di non poter utilizzare tutte quelle cose che aveva preparato per Maria e per Gesù. Con Maria facevamo a gara a preoccuparci l'uno dell'altra. Aver trovato quel rifugio, per quanto inadatto, mi diede un po' di pace. Entravo e uscivo per attingere acqua, per sistemare le cose. Una notte fredda e un cielo perso, pieno di stelle. In lontananza fuochi di pastori all'aperto. Nei miei percorsi notturni a Betlemme mi tornavano alla mente le parole dell'angelo a Maria. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Anch'io sono stato chiamato dall'angelo figlio di Davide. Ma questo non mi giova adesso, pensavo. Non ho ricchezze, non ho una reggia da offrire al figlio di Dio. Ecco, anche questo contrasto con la povertà che lui può offrire al figlio di Dio, e pur essendo di un lignaggio così, diciamo, regale. No? Riflettendo su queste cose con pena, mi accorsi, nel mio mirino, di una luminosità nuova in quella grotta buia. E udì il pianto di un bimbo rompere il silenzio. Un sobbalzo al cuore, tutto così rapido, non me l'aspettavo. Maria, adagiata sul suo letto di paglia, lo stringeva a sé. Mi avvicinai timoroso, incerto. Che cosa devo fare? Non sarò come quei padri che esultano come vincitori con il figlio tra le braccia mentre la moglie sofferente cerca di riprendersi. Io so che non posso esultare come se fosse mio. Maria è luminosa, come se non avesse sofferto. Io non mi lancio verso di lei, ma lei mi fa avvicinare e mi dona il figlio tra le braccia. È normalissimo, bellissimo. E quella sorpresa di Giuseppe è sempre la sorpresa di ogni padre quando conosce il figlio, ma Giuseppe ancora di più, perché si sarà chiesto come sarà questo figlio che viene dall'Altissimo, questo frutto dello Spirito Santo. No? Emana luce, siamo senza parole e lei sorride estasiata. Ecco, io evidentemente scrivendo queste cose, per esempio, ho in mente tantissime immagini dei pittori della storia dell'arte che esprimono proprio, ovviamente Lorenzo Lotto per dire solo uno, ma che esprimono questa luce che viene dal bambino Gesù e che illumina tutti coloro che sono lì intorno ad ammirarlo. Siamo senza parole e lei sorride estasiata. Io non so cosa fare né cosa dire, ma quel bambino tra le braccia mi illumina l'anima, mi scalda il cuore. Sta come con suo padre. Avverto una sensazione nuova. Mi sento padre di quel bambino. Non è un percorso che guido io, ma qualcosa che mi accade. Anch'io mi sentirei di esultare, di lodare Dio a gran voce. Il cuore mi scoppia di gioia. Ecco, io lo immagino forse un po' rapidamente, quello un'evoluzione dei sentimenti di Giuseppe: all'inizio timore, tremore, titubanza e poi dopo grande gioia e grande esultanza interiore. Mi vengono alle labbra quelle parole del Salmo di Davide, mio padre, e mentre le recito, Maria si unisce a me. Ci sembrano proprio scritte per questa notte, per essere dette in pienezza a questo bambino. È il Salmo 139 che a me piace tantissimo e che cito qua. Nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come la luce. Sei tu che mi hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliosa insomma le tue opere, mi riconosce pienamente l'anima mia. Qui posso anche dire una piccola cosa di come questo nella mia vita spirituale, insomma, questo salmo è entrato. In modo particolare mi ricordo che nel leggere l'Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II, lì sono passati molti anni, era proprio sul mistero della vita, sulla grandezza della vita umana, A un certo punto il Papa Paolo II, in quel documento, dice una frase un po' misteriosa messa in terza, anzi al plurale, no? Anche, dice anche noi ogni giorno, una cosa di questo tipo, la recita a memoria, e preghiamo e lodiamo Dio con quelle parole del Salmo, e lui cita lì evidentemente la versione precedente, questa è il 2008 della CEI, che diceva: hai fatto di me come un prodigio, sono stupende tutte le tue opere. È lo stesso concetto, sono cambiate le parole. E io mi sono chiesto, ecco, quelle parole mi hanno colpito, ho cercato di approfondirle un po' e ho pensato che fosse proprio una rivelazione così pudica del Papa, che mette il noi per il plurale modestia, diciamo, un plurale di modestia, per dire anche noi preghiamo tutti i giorni con quelle parole del Salmo per ringraziare Dio del fatto di averci creato così nel seno della nostra madre, come una meraviglia stupenda, come mi hai fatto come un prodigio. Ecco, mi colpirono quelle parole, approfondì un poco il Salmo, anche la liturgia, vedi che sì, è citato qualche volta, ma non tantissime volte, per cui ho pensato, se il Papa dice anche noi preghiamo tutti i giorni con quelle parole, vuol dire che ci sta svelando una parte della sua vita di preghiera, e insomma mi è piaciuto molto e me la sono tenuta per me. Cerchiamo, dice sempre Giuseppe, un luogo dove adagiare il bambino. C'è una mangiatoia che è adatta, lo protegge dal freddo, gli animali vicini lo scaldano con il tepore del loro fiato. Prendo paglia nuova e pulita e la sistemo. Il mantello ripiegato fa la coperta. Maria prende dalla sua sacca le fasce portate da casa, avvolge il bambino come nostra abitudine, insieme lo adagiamo, gli occhi non si staccano da lui, stupore pieno di gioia, Maria in estasi di fronte al bimbo, cerco ancora legna per il fuoco, cerco cibo e acqua per Maria, è importante per il latte. Ecco, insomma, penso che Maria e Giuseppe, e anche in quei primi momenti della nascita di Gesù, ci insegnano che la grande contemplazione, diciamo così, la grande, il vedere Gesù, cioè loro che per primi hanno potuto vedere Dio incarnato, ecco, con i loro occhi di carne, vederlo fatto carne, di nato e stare tra le loro braccia, allo stesso tempo si mescola sempre con la loro vita quotidiana, la necessità di preparare le coperte, di cercare cibo, insomma di sistemare le cose. E così forse noi possiamo fare, no, nella nostra vita di ogni giorno, cercare di guardare Gesù e di vivere la nostra vita di lavoro e di famiglia un po' come, cercando di chiedere a loro l'aiuto e la grazia, un po' come loro vivevano la contemplazione in modo immediato, normale, naturale, avevano Dio bambino che cresceva accanto a loro nella loro casa. Ecco, a questo punto parte invece la confidenza di Maria, che io ho intitolato così: suo padre Giuseppe e io lo accudivamo. Ecco, sempre i titoli sono presi dal testo stesso. E Maria dice così, secondo la mia ricostruzione, la mia fantasia: Dio mi regalò Giuseppe, e ne sarò sempre infinitamente grata. E senza di lui nulla sarebbe stato possibile di ciò che accadde quella notte. Giuseppe è scelto da Dio come custode del bambino e mio. Giuseppe, testimone di quella notte, ha visto e anche lui ha custodito nel cuore. Avrei desiderato sicurezza e silenzio di preghiera quella notte, no? Ma io si immaginava, ecco, invece ci furono freddo e preoccupazione, ma il mio Signore ci donò pazienza nell'ansietà, silenzio nella confusione e l'amore tra noi due e per il bambino in mezzo all'indifferenza della gente. Ecco, anche a noi penso che serva molto questo Dio che aiuta, Dio che sostiene, Dio che è vicino, anche se le circostanze esterne sono avverse. Questa è una, chiediamo al Signore questa, di mantenere questa fede, no? Su esempio di Maria e di Giuseppe, anche quando le circostanze della nostra esistenza sono avverse, di sentirlo così vicino come loro lo sentivano e lo vedevano. Adagiato in quella grotta sulla paglia asciutta, una luce si fece strada attraverso il mio grembo. Poco dopo, tra le braccia, avevo il bambino, che guardavo con stupore e pieno di gratitudine. Ci subito li ho avvolti con un panno bianco che avevo portato da casa, no? Quindi che ci suona nella mia mente quel passo del Vangelo di Luca in cui dice lo avvolse in fasce, no? In deposito nella gioia. Era come tutti i bambini, ma con qualcosa di speciale, percepivo già un accenno di sorriso. Capivo che riceveva con gioia la tenerezza immensa con la quale suo padre Giuseppe e io lo accudivamo e lo custodivamo. Lo allattavo e Giuseppe contemplava la scena. Il bambino gli stringeva un dito della mano, io baciavo Gesù e baciavo la mano di Giuseppe stretta dal bambino. L'arrivo dei pastori, e mi piace dire questi piccoli particolari, come immaginati, come quelle cose della vita di Maria che lei stessa ha custodito a lungo nel cuore e ha meditato poi lungo tutta la sua esistenza. L'arrivo dei pastori ci confortò immensamente. Erano timorosi e devoti, si meravigliarono nel vedere il bambino nella mangiatoia e, apro virgolette, dice, l'angelo ha detto proprio così, mi esclamavano. Fu uno squarcio nell'indifferenza e nell'ignoranza di tutti gli altri, no? E Maria soffre un po', lo pensa che Dio, cioè, il figlio di Dio non viene alla luce nell'indifferenza di tutti, e invece ecco qualcuno se ne accorge perché Dio è intervenuto presso di loro. Dio si manifestava di nuovo a noi attraverso dei pastori. Anche questo a me, quando tutte le volte che leggo la gioia dell'infanzia, mi colpisce, e forse l'ho già detto, ma questo fatto che Dio parla direttamente con Maria e con Giuseppe attraverso l'angelo e con le annunciazioni, poi dopo parla loro attraverso altre persone, questo ci fa capire che anche, vedete, Maria è la piena di grazia, è la madre di Dio, è colei che ha appunto il maggior numero di doni dal Signore, eppure anche lei viene aiutata da altre persone, no? Dai pastori, dei nani, da Simeone, cioè da altre persone che sono inferiori a lei, possiamo dire così, sul livello del ruolo nella storia della salvezza e anche della grazia. E però succede che ciascuno di noi deve sapere che ha un ruolo, a volte anche la nostra parola può passare una parola di Dio per le persone che ci stanno accanto. Pastori come Davide, riflette Maria. E Davide, ci ricordiamo che fu chiamato, era un ragazzino che faceva il pastore lì in quelle zone, e la sua chiamata la ricevette, no? Ecco, proprio mentre pascolava il gregge. Chiedi Dio, e poi dopo, come autore dei Salmi, secondo quello che la tradizione ci tramanda, che di Dio aveva detto che il Signore è il mio pastore e non manco di nulla, quindi non è solo nei Salmi questa immagine del Signore come pastore, ma è senz'altro in questo Salmo, in particolare oggi, è molto suggestiva, no? Quindi Davide pastore, il Signore pastore, e di fatto i pastori sono coloro che per primi vedono Gesù bambino dopo Maria e Giuseppe. La gioia era per tutto il popolo, non solo per noi, questo l'aveva profetizzato l'angelo ai pastori, no? Non eravamo più soli. Quando gli riferirono ciò che l'angelo aveva detto, Giuseppe si stupì e fu pieno di gioia al pensiero delle parole gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che li ama, fosse in particolare per lui. E Giuseppe pensa, ecco, che il Signore gli dà attraverso gli angeli che parlano ai pastori, i pastori che si riferiscono a lui e a loro, gli dà quello che il Signore vuole per lui, che si abbia molta pace nel cuore, nonostante tutte le difficoltà o i tanti dubbi che può avere di non essere all'altezza del compito ricevuto. Vuole pace per il suo cuore. Quindi gratitudine dell'Altissimo per Giuseppe, giovane bellissimo e forte che Dio aveva messo nella mia vita e che aveva compiuto tutto bene in una situazione difficile. Questo è il pensiero di Maria, no? È grata a Dio per Giuseppe e per tutto quello che ha fatto per lei. A Betlemme, che poi è molto bella la gratitudine tra di noi e anche tra gli sposi, no? Ringraziarsi, non è mai, e lo diceva il Papa, no? Grazie, scusa, permesso, diceva queste piccole parole che rendono bella la vita di famiglia. Quindi ringraziarsi, essere grati e anche ringraziarsi esplicitamente è sempre molto bello e molto utile. A Betlemme sistemò quel luogo e poi in breve trovò una casa migliore. E quando si va a Betlemme, senz'altro il luogo più visitato è quello della grotta, della basilica, che è così trasformata, però c'è anche un'altra casa, la casa del latte, la grotta, che è chiamata così, dove la tradizione dice che loro poi hanno abitato dopo, no? Potevo appoggiarmi a lui, con il tempo imparò a essere sempre più tenero nel suo amore, ma fu subito fattivo nelle opere. E è bello considerare questo, no? Che a volte anche le qualità, le virtù, le capacità in noi crescono, anche in Giuseppe sono cresciute, no? È diventato sempre più capace, in terra rude, forte, di tenerezza, ma è subito invece quella qualità di essere capace di risolvere i problemi l'ha messa subito in opera. Soffrivamo insieme per la lontananza delle persone care, ma gioivamo per il dono immenso ricevuto e donato al mondo. Non volevamo accettare doni da quei pastori poveri, ma ci costrinsero a farlo e noi davvero non avevamo nulla. Andammo presto al banco del censimento quando si fece giorno. Dentro il nostro cuore c'era un contrasto. Sapevamo che nostro padre Davide era stato punito da Dio per aver voluto contare i suoi uomini, perché non si era fidato della forza di Dio. In quell'ordine dell'imperatore vedevamo un tentativo di mettersi al posto di Dio. E noi, con il figlio di mio bambino, dovevamo sottometterci a quella legge? Dubbio, no, che viene però. Andammo comunque e lungo gli anni comprendemmo che in quel paradosso c'era un disegno di Dio. Anche i potenti del tempo, i padroni del mondo, avrebbero testimoniato in modo inconsapevole, con il loro, loro documento scritto, che era nato a Betlemme il discendente della tribù di Davide di nome Gesù, che significa Dio salva, figlio di Giuseppe di Nazareth. Dio aveva previsto che il nome di suo figlio, il Salvatore, risuonasse nei cieli di Betlemme, nel canto degli angeli, e fosse scritto nei documenti di quegli uomini che lui era venuto a salvare. Ecco, ho pensato appunto questo particolare sul censimento, mi è venuto in mente scrivendo questo libro, che è carino come particolare, cioè il fatto che anche la legge degli uomini in qualche modo, possiamo immaginarci, ha documentato la nascita del figlio di Dio e il Salvatore, perché Gesù è il nome che significa Salvatore. Il nome di Gesù risuona anche nel rito della circoncisione 8 giorni dopo. Giuseppe ebbe ancora una titubanza, si voltò verso di me al momento di pronunciare il suo nome. Io con uno sguardo lo incoraggiai. Doveva essere lui, il padre, a pronunciare il suo nome. Lo pronunciò e in questo modo dichiarò se stesso padre e il figlio Salvatore. Il nome Gesù. Custodivo nel cuore ciò che era successo e lo meditavo. Dio mi fece comprendere che aveva permesso circostanze avverse per la nascita di suo figlio per allontanarmi dalla mia gente e proteggere me e il bambino da sguardi non ancora in grado di comprendere. Gesù era nato nel silenzio di una grotta senza spettatori. A Nazareth o in qualsiasi altro alloggio sarebbero accorse donne ad aiutarmi, ma il mio mistero doveva essere custodito. Dio rispose che la nascita del Salvatore restasse un mistero per tutte le generazioni. A me solo aveva donato la grazia di starmi di fronte senza temerlo, ad accoglierlo con naturalezza, ad avvolgerlo di tenerezza. Quando ricevetti queste luci nella preghiera, no, che io mi immagino che avvengono col tempo, no, quindi lungo gli anni, le confidai a Giuseppe. Lui accolse le mie parole con un silenzio pieno di commozione. Questo è un altro linguaggio dell'amore, se vogliamo, questa confidenza sulle luci che si ricevono dal Signore. Gli servirono per accrescere la sua fiducia nella protezione di Dio e per affrontare più serenamente le prove successive. Si rivolse a Gesù neonato tra le mie braccia chiedendo perdono di aver avuto poca fede. Così commosse me, lo strinsi in un abbraccio insieme al bambino e gli dissi per consolarlo: anch'io ho avuto bisogno delle spiegazioni di Dio. Bellissimo capitolo, don Andrea. Posso aggiungere una cosa? Sì. Che sei stato bravissimo nell'aggirare l'ostacolo, perché secondo la nostra fede la Madonna è vergine prima del parto, durante il parto e dopo il parto. Per cui tu hai girato l'ostacolo dicendo, Giuseppe dice, udì il pianto di un bimbo rompere il silenzio, un sobbalzo al cuore, tutto così rapido, non me l'aspettavo. Maria, adagiata sul suo letto di paglia, lo stringeva a sé. Mi avvicinai timoroso e incerto. Bellissimo, bravo don Andrea. Grazie Antino, grazie, sei per un mistero grande. Questa è un'ipotesi che può aiutarci a immaginare come appunto Maria è vergine prima, durante e dopo il parto. Benissimo, allora una bella benedizione dopo questa bellissima esposizione. che ci ha appunto parlato della nascita di Cristo a Betlemme, e alla prossima. Alla prossima, sì. Allora, bene, grazie Valentino. Allora, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, per intercessione anche di Giuseppe e di Maria, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, anche sulle vostre famiglie, su tutte le vostre intenzioni di preghiera. Amen. E anche intercessione di San Giuseppe Maria. Maria. Certo, San Giuseppe Maria. Grazie, grazie Don Andrea. A presto. A presto, ciao. Tormento, tu fai in modo che...